Uno via. Col mento infossato nel collo e gli occhi pesti dallo sguardo torvo, ma quando non diffido e cambio filo, ogni tanto geometro da sola la mia vuota noia di perpetua e cedo e sbianco fra le pareti scoscese della mia scabra stanza. Di nascosto sposto il peplo e svesto con un dito insinuante il tuo miraggio sinuoso e mi periplo stanca disilludendo la tua ansia di purezza con altra vecchia ferita aperta di muliebre e brezza e allora sì che non perdoni la mia svista e forse non ritorni ci vedo dopo non abbia davvero accontentata lei, me, proprio me, che il tuo miraggio, mio uomo, ha bacinato, perennemente svisa e ti depista. Da 20 anni, Ulisse, vai a orecchio a falsirene e mi perdi di vista. Da 20 anni ogni notte mi snodo le caste ciocche rossicce dei miei capelli a spago unti della tardiva adolescenza in cui malgrado me m'attardo. Ogni notte scaltra sarta mi consumo nel ricordo, sfilando i teleri di un racconto cui mai appartenni, ma zitta zitta come Susa raggomitolo la trama del ricordo, livida e raccolta tramando il tuo ritorno, la tela di un racconto che non svolsi e non svolgo, e l'ancella alle calcagna, cagna senza cuore, tappa le conserve. Ma quando mi distraggo e perdo il filo, storco gli occhi e si sfoca il bagliore del mare nostro nei miei capelli aridi e gualciti e mi spezzetto le doppie punte misurando sfibrata a dita, a spanne, noia sazia dei tuoi bifidi godimenti di bilingua doppia fiamma mentre la nave prora azzurra falca l'onda come due cosce d'una qualche anemica Nausicaa semidea che ti accavalla. Da 20 anni ogni notte mi sfilo da sole e reggipetto e ci ripenso, ma l'assorbo, lo sgarbo, il torto malaccorto di quanto ti imbuterasti in altri antri di un fottio di divette e ogni notte ci lasciasti il cinci o tramutato in biroldo moscio da sciami di voci maliarde di circi o scivolando pitone di sguincio tra tette pitte di bottane butirre di porto o sbattendo per anni e anni per diporto. Vado. Fra le molli onde della vulva grottesca di Calipso, Cicero secco cotto a fuoco lento, noci, nonnate, sfince, patè di ventresca, tutto a sbafo della ninna ninfa il buffet senza scampo. Ma quando ripiglio fiato e torno nei miei panni, c'era un tronco d'olivo in cortile mai rimosso. Chi oserebbe traslocare il segreto del tuo letto tutto per me, solo per me, dalle tue mani eretto? Ogni notte affondo nel nostro letto trapunto d'olive il letto cui m'ancorasti al varo delle nozze, tu crostaceo ritroso in coppa di spumante, io bibita allolita ancheggiante, mi mettesti un granello di sabbia in bocca e una conchiglia di ferro e silicio nel petto e fui subito tua libita convessa concubina concava cuna inamidata, addensante perle di prole da gocce di sperma e matrice licita. Da 20 anni mi rigiro bocconi, soffocata da quel tronco d'olivo che m'opprimi il petto e perpetuamente gemma. Ho sposato il boro di provincia, il principe Ranocchio, e adesso moro di noia, muro a secco, ma m'intasa troppa flemma. Ogni notte mi penetra la schiena questo pungolo di trapano trivello, ogni notte braccia conserte insonne, ma rovella questo tarlo. tu principe irretito in un mare salamoia, io graticola ignara, principessa sul pisello. Da 20 anni ipnotico, Carillon, ruoto intorno al tuo pene perno, giocando alle belle statuine, io ne ho sposina di plastica e tulle, ballo imbranata sulla torta di panna e faccio le moine. Tu statua di sale grosso impacciata da lacrime flotte di zucchero invertito, ogni tanto mi dai il contentino, sposo sbramato, insaccato dalle maghe, pervertito. Ma quando perdo la pazienza e m'indigno, salta in aria un ordigno di memoria compressa, e voco te a gran voce sogno che adesso arrivi e prendi tutti a calci, minchioni proci a torte in faccia, accendi una miccia in casa, che paniccia!